Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Stasera andiamo a Barcellona, più precisamente nella stazione metropolitana di Paseo de Gràcia, dove sta per partire Sinforas, un progetto pilota, diciamo così, benedetto dall'Europa per la riduzione dei consumi energetici dei sistemi ausiliari di una stazione appunto metropolitana. Dovete sapere che i consumi di una metropolitana sono dovuti per il 70% ai treni, ma per il restante 30% ad altre voci, come per esempio la ventilazione, l'illuminazione e la movimentazione dei passeggeri all'interno della metropolitana. Pensate ai nastri scorrevoli piuttosto che alle scale mobili. È su questo 30% che si andrà ad incidere con una metodologia del tutto innovativa, metodologia sulla cui messa a punto l'Europa ha deciso di investire 2,9 milioni su un costo complessivo di 4 milioni del progetto. Il coordinamento scientifico di questo progetto, che come sempre, come molti progetti europei, ha molti attori, ma ne parleremo dopo, è stato affidato ad Alberto Giretti, ricercatore dell'Università Politecnica delle Marche, che è in linea con noi. Buonasera Giretti. Buonasera Melis. Dunque Giretti, allora parliamo di ottimizzare i consumi dei sistemi ausiliari di una stazione metropolitana anche piuttosto complessa, dove si incrociano tre linee diverse, ma è la metodologia che state sviluppando il dato più innovativo. Allora ce ne vuole parlare? Ma guardi, è un approccio che abbiamo sviluppato da tempo, diciamo, stiamo sviluppando in realtà da tempo all'Università Politecnica delle Marche, che sembra essere molto proficuo in termini di rapporto fra investimenti e risparmio energetico ottenuto. Di fatto il risparmio energetico fino ad oggi è stato tradizionalmente almeno perseguito attraverso tecnologie che potremmo chiamare hard, tipo grossi isolamenti, impianti più efficienti, anche la generazione, la microgenerazione di energia tramite rinnovabili come i pannelli solari, che però di fatto hanno richiesto sempre investimenti abbastanza significativi. Sì. La nostra tecnologia è una tecnologia soft, significa che non installa tecnologia hard ad alto costo, in realtà tende ad ottimizzare tutto quello che già esiste e che già è controllabile. Questo viene fatto ovviamente attraverso alcune tecnologie ICT, quindi informatiche, che prevedono sostanzialmente la sensorizzazione della stazione. Ecco, quindi l'hardware che voi andate a installare sostanzialmente è un insieme di sensori. Sì, che poi permettono a dei sistemi software cosiddetti intelligenti, insomma, con tecniche di intelligenza artificiale, che permettono poi di controllare la stazione in maniera cosiddetta adattativa. Che cosa significa adattativa? Significa che i sistemi non agiscono, diciamo, secondo parametri progettuali fissati, ma tengono conto di quelle che sono le esigenze, le opportunità, anche in maniera relativamente opportunistica. Facciamo un esempio, perché una cosa che mi ha colpito è scoprire che in questa metropolitana, dove naturalmente sono installati dei sistemi di ventilazione, cosa fondamentale, questi sistemi di ventilazione erano anche dotati dei cosiddetti inverter, cioè sono come degli acceleratori per motori elettrici, per cui si poteva regolare la spinta dei ventilatori più o meno come si voleva. Questi sistemi già c'erano, però di fatto questa possibilità non veniva utilizzata. Allora voi come intervenite qui? In questo caso noi cerchiamo di sfruttare la ventilazione naturale e controlleremo il ventilatore in maniera più propria, abbassando la velocità quando l'influsso, l'apporto della ventilazione naturale è sufficiente a garantire i parametri di sicurezza che il progetto originario prevedeva. E a questo punto l'energia, il differenziale di energia ovviamente è un differenziale che viene risparmiato. Ecco, e poi voi farete interventi analoghi sull'illuminazione, eccetera, eccetera. L'obiettivo finale di questo progetto, mi sembra molto importante spiegare questo aspetto, è arrivare, perché il progetto costa 4 milioni, ma non è che poi per fare in un'altra metropolitana questo stesso progetto ci vorranno ancora 4 milioni. Al contrario, voi state cercando di mettere in piedi una sorta di operazione low cost. Esattamente, l'obiettivo è quello di prevedere investimenti di alcune decine di migliaia di euro. E stiamo lavorando, tutto il progetto e l'alto costo del progetto serve per spostare da in fase precompetitiva la tecnologia, in modo che si possa garantire per esempio dei payback di investimento agli operatori nell'ordine dei 5 anni, quindi estremamente convenienti. E soprattutto questa tecnologia è una tecnologia che è complementare a tutti gli investimenti che invece vengono fatti sulle hard technology, quindi se per esempio l'operatore sviluppa una tecnologia LED o implementa una tecnologia LED per risparmio energetico, noi potremo ottimizzare questa tecnologia e quindi, diciamo, rendere ancora più conveniente l'investimento originario. Grazie Alberto Giretti. Buonasera Melis. Ebbene, capofila di tutto questo progetto europeo Sim for You è Cofeli Italia. Sergio Tomasino, che di Cofeli è direttore generale aggiunto, è in linea con noi. Buonasera Tomasino. Buonasera, buonasera. Allora, ci spiega un po' come nasce questo progetto, chi sono i partner? Il progetto è partito nel dicembre 2010 all'interno del Sinforas, nell'ambito del settimo programma quadro del 2011, e questo progetto è stato ovviamente presentato nella Commissione europea con la caratteristica di avere una compagine molto allargata in termini internazionali. Infatti siamo praticamente 7 realtà di 7 paesi diversi e diciamo 2 relativamente all'Italia, che siamo noi come Cofeli in qualità di coordinatore capogruppo, e poi l'Università delle Marche, altro italiano. Gli altri sono Spagna, Germania, Olanda, Finlandia, Svezia, tutta una serie di realtà, molte nell'ambito degli istituti di ricerca o università. Fraunhofer Institute, per esempio, no? Per citarne uno famoso, ma ce molto, ne sono altri. Molto famoso, sì, ce ne sta quello, c'è anche l'Istituto Politecnico di Catalunya, ci sta il centro di ricerca Almendede olandese, insomma sono tutte società molto conosciute nei propri paesi. Qual è il vostro compito? Voi esattamente di cosa vi occuperete, oltre che di coordinare tutto? Allora, il nostro ruolo in qualità di appunto coordinatori è quello di fare un audit energetico preliminare e il monitoraggio dei risultati, poi l'elaborazione dei piani di sfruttamento e di diffusione dei risultati del progetto, e seguire in particolare anche l'aspetto della comunicazione e della diffusione. E devo dire che anche in seguito ad alcuni articoli che sono apparsi sulla stampa abbiamo avuto alcune segnalazioni già a livello italiano da realtà che gestiscono appunto grandi stazioni, proprio per questa originalità del progetto, che anche se è su piccole dimensioni è enormemente replicabile. Grazie Sergio Tomasino. Grazie a lei, un saluto. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, buona serata.